la notte che Bessi cantò e che gran festa si fece a New Orleans. Lobby al piano fumava, qualcuno beveva, quella notte che Bessi cantò, quella notte che Bessi cantò. D'altre stelle la voce volò e raggiunse Chicago, qualcuno pensò, ma son certo più in alto arrivò. E si sentì cantare in mille ritmi e Mississippi Blue, e Mississippi Blue, Mississippi Blues. Poi Big Maglione fece un salto e sopra un tavolo arrivò, e allora tutti a incominciare, grande gara di Foxtrot. Quella notte che Bessi cantò, che gran festa si fece a New Orleans. Lobby al piano fumava, qualcuno beveva, quella notte che Bessi cantò. Si sentì cantare in mille ritmi e Mississippi Blues, Mississippi Blues, Mississippi Blues. Poi Big Maglione fece un salto e sopra un tavolo arrivò, e allora tutti a incominciare, grande gara di Foxtrot. Quella notte che Bessi cantò, altre stelle a un piano più su, c'era Johnny che freddo non cantava più. Lo sapessi, lo so io, lo sai tu.